24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Corrado Passera, 60 anni, sposato, 4 figli, un quinto in arrivo, uno dei top manager italiani. Bocconiano con una carriera super brillante, direttore generale della Mondadori prima, del gruppo Espresso poi, dal 98, amministratore delegato delle Poste Italiane. L'Erisana ne espande i servizi finanziari con la creazione di Banco Posta, fino a portarlo in utile nel 2002. Dal 2002, come amministratore delegato di Banca Intesa, è praticamente il banchiere numero uno d'Italia. Lascia tutto per fare il super ministro dello sviluppo nel governo Monti. Oggi ha scelto la politica, ha scritto un libro Io Siamo per raccontare il suo progetto di candidato sindaco a Milano. E a proposito di progetti, lo scorso anno che a Mix 24 aveva detto che avrebbe mobilitato 300 miliardi per rilanciare l'Italia. Risentiamolo. Sono più di 200-300, possono essere anche 400-500, sono tutte cose fattibili. Sì. 100 miliardi sono lo scaduto della pubblica amministrazione e non lo fanno e si potrebbe fare. 100 miliardi sono il TFR e il salario di produttività in tasca alle famiglie che ne hanno bisogno e non succede. 100 miliardi sono i fondi strutturali europei per farne infrastrutture sul serio e ricerca. Senta, e innovazione. Passera. Sono tutti lì, sono tutti fattibili, le famiglie e le imprese italiane li aspettano e i governi uno dopo l'altro non lo fanno. Va bene. Ecco, ma se è così facile, dottor Passera, a mobilitare, così semplice, perché Renzi non lo fa? Perché preferisce fare cose di brevissimo termine, invece di fare gli investimenti, addirittura li diminuisce e preferisce distribuire soldi. Ecco, però neanche il governo di cui lei era super ministro lo ha fatto. Beh, insomma, in pochi mesi, 50 miliardi di infrastrutture e 40 miliardi per pagare i debiti dello scaduto sono stati soldi importanti. Ne restano 300. Senta, adesso lei si candida sindaco a Milano. Quando ha deciso di farlo? Era il programma, cioè prima le porte nostre, le nostre presenze sul territorio e poi metterci alla prova, dimostrare ai cittadini che la politica si può rifondare ripartendo dai sindaci. Ecco, senta dottor Passera, è il sondaggio del Corriere che le dà il 12% che l'ha un po' aiutato. Prima ancora di partire, no, quello è arrivato dopo, cioè luglio e agosto in giro nei quartieri e il primo risultato, devo dire, è stato di grande soddisfazione, ma siamo ancora all'inizio. Non è ancora partito. Senta, Cuccia, Enrico Cuccia, diceva che passare da banchiere a ministro era una diminuzione, figuriamoci da banchiere a sindaco. Come l'avrebbe giudicato? Ha detto tante cose giuste, tante cose sbagliate. Questa è una delle Io credo che in questo momento rifondare la politica partendo dai cittadini sia la cosa che serve a questo paese. Solo contro tutti? No. No. Con tutti i cittadini e con la voglia di mettere insieme una grande maggioranza partendo da una rete civica legata al futuro di Milano. Senta, ma chi dovrebbe votarla senza un partito, un'alleanza? Cioè, non mi dirà che anche lei si dice se non c'è il partito dietro chiedo, non si può far io politica. Chiedo a lei. Milano io ha dimostrato in tantissime occasioni di guardare alla persona, di guardare ai programmi, di fregarsene degli schieramenti. Senta. E anche i sondaggi lo dicono, nessuno schieramento oggi ce la farebbe. Bene, senta, solo col suo simbolo, insomma come Marchini a Roma. La rete. Come la Marchini rete, a Roma. Marchini mi sembra che stia andando in questa direzione. Oggi ci sono, lo dice anche l'ultimo sondaggio del Corriere, oltre il 50% dei milanesi non è contento di quello che ha, oltre il 50% addirittura non andrebbe a votare. E quindi va verso di loro. Lo spazio. Questa è la nuova politica, diciamo. Questo è un modo per reinventare la politica che serve all'Italia. Sì. Senta, ma corre per vincere o solo per partecipare? Senta. Non scherziamo neanche, cioè, avrei di meglio da fare se fosse testimonianza. Corro per vincere, c'è lo spazio e si stanno mettendo insieme tante persone in gamba che hanno la stessa sensazione. Senta, cosa le fa credere che Milano ha bisogno proprio di uno come lei? Perché Milano ha bisogno di competenza, ha bisogno però di essere fortissimamente capace di fare solidarietà e quindi coesione, visione internazionale. Milano può essere una delle città più dinamiche del mondo per creare posti di lavoro e ci vuole qualcuno. Quindi che ha ragione Cantone, cioè? Che può essere capitale d'Italia, ritornare a essere la capitale morale d'Italia. Beh, adesso lì si è un po' lasciato prendere dall'entusiasmo. Comunque, certo, Milano può essere modello sia di sviluppo economico, sia di coesione, sia di dinamismo. Il futuro dei prossimi decenni sarà delle città. Senta, intanto. Una cosa gliela riconoscono tutti, di aver fatto bene alle Poste. Adesso sono state privatizzate. Bene è un po' limitativo, insomma. Ecco. Meglio, non piuttosto, so. Piuttosto veramente bene. Bene. Mi sembra di averlo detto con nella presentazione. Certo. Senta, adesso sono state privatizzate. Una scelta giusta? Sbagliata. Perché? Sbagliata perché le Poste hanno due cose che sono importantissime per il paese. Hanno 500 miliardi di risparmio degli sì. italiani che servono per finanziare la Cassa Depositi e quindi gli investimenti e il debito pubblico. E la seconda? E la seconda che l'obiettivo delle Poste è di dare a tutti, in tutti i comuni d'Italia, servizi essenziali al minimo servizio prezzo possibile. Se insomma. Uno si quota, mm-hmm. diventa massimo prezzo possibile, non minimo prezzo possibile. Quindi critica metodo, forma, il fatto in sé proprio tutto. Un errore. Proprio un errore per uno che dice che bisogna privatizzare tutto, è quello che è privatizzato. Lei ha detto, ha citato adesso, parla di ripercussioni negative anche sulla Cassa Depositi e Prestiti, che in fondo dovrebbe essere il motore della politica industriale la del Cassa paese. Depositi e Prestiti vive sul risparmio postale. E perché le Poste quotate potrebbero raccogliere per chiunque, non è più dello Stato, addirittura devono trovare ciò che rende di più, non ciò che serve di più. La Cassa Depositi, che è uno strumento formidabile, ha bisogno del risparmio però non postale. Però non ha negato mai la sua vocazione sociale, le Poste, anche nel suo diciamo impegno alla privatizzazione. Sì, ma quindi, sa, le parole lasciano il tempo che trovano. Nel momento in cui non è addirittura neanche garantito il servizio universale, le parole, ma chi se ne frega. Senta, ma le scelte del governo sulla Cassa Depositi e Prestiti la convincono? I nomi? Le nomine? Sono cioè, professionali? Sì, sicuramente sono persone che conoscono la finanza, sta a vedere se hanno l'entusiasmo per lo sviluppo del paese, che è un'altra cosa. Cioè? Perché? Qui bisogna... La Cassa Depositi ha come funzione fondamentale... operare dove è il motore della politica industriale, dove il privato non riesce, dove c'è da investire nel lungo termine, dove c'è da creare le ragioni dello sviluppo futuro. E adesso perché non lo potrebbe più fare? No, io dico che lo farà. Va bene, quindi le nomine le condivide. Sì, non devo dire, non ho condiviso il non lasciare completare l'esercizio precedente, sostituendo, però questo... Senta, ma da sindaco di Milano, lei l'ha un po' detto, le privatizzerebbe tutte le municipalizzate. Per esempio l'azienda elettrica, piuttosto che gli aeroporti, certo, perché servono quei soldi per fare infrastrutture sociali, per fare case popolari, per fare università, per fare campus, ma le Poste no, le Poste è un'altra cosa. Senta, da cittadino quindi le Poste, le azioni delle Poste in borsa non le compra? Non le comprerebbe? No, le hanno vendute a un prezzo talmente basso che probabilmente allora conviene. Però non hanno chiarito, per esempio, cosa sarà il futuro del servizio universale, chi coprirà i costi del dare il servizio a tutti in Italia. Per cui sono riusciti a fare un vero pasticcio. Senta, lei dopo essere stato manager e banchiere ha fatto il super ministro dell'economia con Monti. Dello sviluppo economico. Sì, dello sviluppo economico. No, perché quello dell'economia è quello che ha tutti i poteri. Dello sviluppo economico. Cosa l'ha convinta? Di andarci? Sì. Beh, era un momento in cui, se lei si ricorda, l'Italia sembrava a un passo dal commissariamento. Era tutto pronto per commissariare. C'era la possibilità di dimostrare che l'Italia ce la poteva fare. Chiama il Presidente della Repubblica, la cosa risponde di sì. Senta, adesso si passa un po', lo stiamo dicendo, da professionisti della politica a neofiti come lei, Marchini, Sala. Beh, adesso non mettiamo tutti sullo stesso livello. No, vabbè, con sensibilità diverse, però alcune caratteristiche. Ma l'esempio di Marino, per esempio, non insegna nulla? Beh, l'opposto, cioè è una chiara espressione di un partito tradizionale, di un partito che in questa città ne aveva fatte di tutte. Beh, sa, non era politico. Sembrava che facesse il medico. L'aveva fatto forse nel passato. Senta, ma chi è sicuramente politico puro è certamente Renzi. Lei lo critica su tutto. Però sembra quasi la volpe e l'uva. Che cos'è che non le piace proprio di Renzi? La vecchia politica, il potere per il potere, il distribuire soldi per creare, per prendersi voti. Proprio ciò che ha portato l'Italia al disastro e alle 10 milioni di persone senza lavoro. Senta, però nel suo libro programma che ho letto, Io Siamo, ci sono moltissime cose simili a quelle che dice. I titoli, ma non il contenuto, perché lui le racconta tutte, poi non le fa. Cioè quando si dice 100 miliardi di investimento per rimettere in moto l'Italia, dopodiché va a vedere i dati, quest'anno addirittura sono stati ridotti gli investimenti pubblici. È un crimine questo. Senta, ma mi dice almeno una cosa che Renzi ha fatto che le piace? Beh, per esempio mettere Tronca a prefetto, al commissario di Roma, sicuramente sì. Poi me ne faccia trovare un altro in 2 anni, ma un passo nella direzione della responsabilità civile dei giudici è solo un passo, ma questo è stato una cosa positiva. Quindi 2 in 2 anni ne ha fatte. Vabbè, 2 sono mica poche. Senta, il Job Act ci vorrà un secolo per mettere a posto il paese. Il Job Act, per esempio, le piace o no? Un errore totale. Perché? Pensi, abbiamo già messo 20 miliardi di incentivi e abbiamo creato a dir tanto 100.000 posti di lavoro. Cioè, ma i dati sulla disoccupazione migliorano? Ma neanche per sogno, aumentano gli inoccupati, perché poi c'è questa superficialità pazzesca nel guardare i numeri. Il numero degli italiani senza lavoro aumenta. Stiamo spendendo dei soldi pazzeschi che, se invece dedicassimo ai giovani, all'apprendistato, ai contratti di produttività, avremmo cambiato l'Italia. Senta, però Bertelli, l'amministratore delegato di Prada, oggi proprio su Repubblica dice che il Job Act funziona. Per lui funziona. Beh, cioè, l'affetto può un pochettino far accettare. Il suo sarà l'affetto, il suo l'avversità, insomma, si compensa. Beh, sono quelli sono fatti. È 20 miliardi per 100.000 posti. Il suo governo Monti, nato per ridurre lo spread, lo ha ridotto aumentando le tasse e anche la spesa, era la strada giusta. Facendo riforme come è stata quella difficile ma fondamentale delle pensioni. E facendo uno dice Fornero oggi si tocca, cioè è una cosa tremenda. Sì, ma guardi che nella vita, soprattutto nella vita dei paesi, ogni tanto ci vuole qualcuno che dica il sistema pensionistico quindi non è sostenibile, bisognava farlo. E infatti è stato fatto con l'appoggio di tutti. Dopodiché riforme strutturali che hanno ridotto 30 miliardi di costi strutturali, e questo è stato fatto da ben pochi altri. Senta, Renzi con la legge di stabilità le tasse le abbassa, però elimina, ma quale riduzione? Lo sa che nei prossimi anni IMU e TASI. Lei è d'accordo? E ne aumenta altri, lo sa? È che d'accordo o no? Lo sa caro Minore. Mi dica, caro che Passera, tra adesso il 2018 le entrate fiscali di questo paese aumentano secondo i piani del governo di 100 miliardi. È d'accordo o no su IMU e TASI? No, sicuramente è sbagliato chiedere a dei benestanti, ma perché lei è Dio? Non dobbiamo pagare la TASI, non dobbiamo fare la nostra parte per far vivere il nostro comune. Questo è elettoralismo di basso livello. Lei pensa che sia una legge scritta già a penna o ancora matita, quella di stabilità? È piena di buchi, per cui spero che sia matita e che si correggano tante cose. Resta il fatto però che nessun governo, compreso il suo, è riuscito a fare spending review. Perché non si riesce a fare la spending review in Italia? Allora, in talune casi 5 commissari sono stati fatti fuori senza riuscire a incidere. Nel caso 5. Di questo governo è chiarissimo, no, perché non vogliono sono farlo. Sono 3 governi che non Benissimo. Ci riescono. Negli altri governi in pochi mesi è molto difficile, le resistenze sono fortissime, però si può. Pensi solo si ai costi può, standard ma non si della fa. Bisogna avere una forte maggioranza e la volontà. Questo governo non lo vuole. Appena un commissario tira fuori un'idea, li licenziano. Senta, ma intanto il tetto di 3.000 euro per il contante, lei lo Sbagliato. Perché favorisce l'evasione, secondo lei? In un paese dove si usa pochissimo la moneta elettronica e c'è tantissima evasione, è sbagliato. Però, in altri paesi può darsi che possa essere. No, perché infatti ci sono paesi in cui non c'è evasione, si paga tutto per carta di credito e le persone lo fanno automaticamente. Senta, bisogna incoraggiare quell'utilizzo. Lei ha detto che se la crisi finanziaria fosse stata gestita come io ho gestito Banca Intesa, non ci sarebbe mai stata. No, è un po' un megalomane. È un fatto. No, aspetti un attimo. Guardi anche adesso a distanza di anni. In Europa una delle banche più solide che cresce di più nel credito è Banca Intesa, perché ha saputo fare credito sempre, perché ha saputo aumentare il patrimonio quando era necessario, perché non si è fatta prendere dalla turbofinanza. Ecco, questo era un modello che, se seguito soprattutto nei paesi anglosassoni, avrebbe evitato la crisi finanziaria. Ma intanto Draghi ha salvato l'euro e un po' l'Europa o no? Assolutamente sì. Cioè, ha fatto veramente tutto ciò che serviva e ha fatto in modo che non solo che l'euro resistesse, ma che ci fossero e ci sono tuttora le condizioni macroeconomiche per poter crescere. Senta, lei dice che con interessi zero, il cambio a 1 col dollaro, il petrolio a 50 dollari, noi dovremmo crescere il 3%. Perché non capita? Perché non si fanno gli investimenti, si usano i soldi per comprare voti. Con questi soldi, con questi tassi... Nessuno cresce al 3%, però... Qui da noi, facendo le cose che io suggerisco, il programma messo sul vassoio d'argento. Ma gliel'ha governo... detto anche alla Merkel, perché neanche lì crescono Merkel, 3%. Cioè avessimo noi i problemi di crescita della Germania, staremmo tutti bene, soprattutto di disoccupazione. Senta, con questi tassi bisogna investire di più, invece tagliano gli investimenti. Senta, ma la privatizzazione di Telecom adesso sta diventando una privatizzazione alla francese. Vuol dire perdere il controllo della digitalizzazione del paese, oppure è... l'effetto naturale della globalizzazione. E allora adesso le metti insieme un po' di cose diverse. Comunque, in questo periodo, purtroppo... Allora, alla francese va bene questa privatizzazione? Sì o no? Allora, Telecom... Mi dica sì o no, però. Allora, Telecom, anche se francese, può essere un attore perfetto, importante, però... In un'Italia come questa, in cui noi stiamo perdendo, stanno andando tutte le grandi aziende, ci dobbiamo porre il tema. Cioè, mai come sotto questo governo i grandi gruppi hanno lasciato l'Italia. Senta, perché? Perché evidentemente non vedono nell'Italia né lo spazio né l'interlocuzione giusta per essere base della loro attività. Senta, lei vuol fare e dobbiamo tornare indietro. Lei vuol fare il sindaco, cioè ripubblicizzare? Tornare indietro, no, cosa vuol dire? Vuol dire fare dell'Italia un luogo di attrattività per questi grandi gruppi che invece se ne vanno. Senta, lei vuol fare il sindaco di Milano, lo stiamo dicendo, ma senza la Lega di Salvini, anche se i partiti non contano niente, pensa che sarà possibile? Beh, vedrà lui. Io credo che il programma che presenteremo ai milanesi sarà talmente forte che sarà difficile dire anche da parte loro che non è quello ma giusto. Ma ne ha parlato con Salvini? No. Se Salvini si candidasse, lei si ritirerebbe? Non ci penso neanche. Sulla sicurezza, la Lega e Forza Italia spingono per modificare la legge sulla legittima difesa. Lei è d'accordo? Certamente c'è spazio. Ma fino a che punto? Beh, certo non deve essere la possibilità di farsi giustizia da soli, però guardi che questa visione in cui difendersi diventa quasi simile a un omicidio è proprio sbagliato. Ci sono sindaci leghisti che offrono il bonus pistola per difendersi, appunto. Lei lo farebbe anche lei? No. No? Se Berlusconi ha detto che a Roma voterà per Marchini, a Milano si aspetta che voti per lei? Credo che sarebbe nell'interesse sia di Milano che suo. E non ne avete parlato? No. Intanto il commissario dell'Expo, Sala, potrebbe essere un suo concorrente, lo teme? No. Perché? Perché no. Beh, perché no? No, perché no? Sembra no, un bambino. No. Vuol dire che è forte. Ecco. È un no proprio un no assoluto. Forte. Cioè, non lo stima. No, lo stimo assolutamente. Ha fatto un buon lavoro all'Expo. Però non lo vede come sindaco di Milano. No, ma soprattutto sarebbe espressione di un'amministrazione che ha fortemente deluso e non è che questo cambierebbe perché ci mettono un altro nome. Senta, ma dopo l'Expo, Milano è una città diversa? Beh, l'Expo è stato un successo, soprattutto di pubblico, però perché sia veramente qualcosa che cambia in positivo Milano ci deve essere un post-Expo positivo. Questi sono riusciti in 5 anni a non elaborare una idea progetto per il dopo-Expo. E lei cosa farebbe come sindaco dell'area dell'Expo? Un nuovo centro di sviluppo di Milano, come è stato Porta Nuova, il quadrante cosiddetto nord-ovest di Milano, con al centro l'area Expo, può diventare un fortissimo nuovo luogo di sviluppo. Cioè, un luogo di sviluppo facendoci cosa? Allora, lì c'è un parco industriale da fare di nuova generazione. L'area dell'Expo può diventare luogo di università, luogo di sport, luogo di, per esempio, il luogo del palazzetto che Milano non ha. Intorno c'è un'area fantastica residenziale e la possibilità di fare uno dei parchi più belli di Milano. Se uno ha questa idea... Quindi cemento, insomma, un po' di cemento. Zero cemento. Cioè tutto, anzi, oggi non c'è praticamente verde, faremo il più grande parco di Milano, ma non distruggendo l'Expo come loro vogliono fare, quindi rendendolo insostenibile, ma usando l'area tutta intorno all'Expo e facendo dell'Expo il motore... Se fa l'università, fa questo e fa quello, costruisce. Utilizzando quello che c'è dell'Expo, senza distruggere quello che l'Expo ha fatto. Senta, l'Expo è stata voluta... dal governo Prodi e da Letizia Moratti. Adesso che è stato un successo nessuno lo dice, perché? Ma perché la mancanza di obiettività della politica. Addirittura l'amministrazione milanese che era contraria all'Expo adesso se ne fa un cavallo di battaglia. La stessa politica romana è sempre così e deve essere ed è normale che sia così. Però ricordiamoci chi ha avuto il merito, certamente la Moratti più prima di tutti insieme a Prodi. Ecco. Senta, molti dicono che il suo limite nel fare in questa scelta politica sia quella di avere una limitata capacità di comunicazione. È vero oppure no? Lei si riconosce questo difetto oppure no? Si può migliorare, però attenzione, quello si può migliorare, però attenzione. Quando si vuole essere alternativi a tutti e quattro i populismi, non è che puoi scegliere lo stesso tavolo loro a chi urla di più o chi la racconta più grossa. Ma lei prima urlava un po'. Devi essere... Beh, mi faceva arrabbiare dicendo delle cose che non stavano nel cielo e in terra. Per cui vede che sto imparando. Ah, vede, però... Ah. alternativi anche nel modo di comunicare, cioè che la gente vuole serietà, vuole competenza, insomma, ci vuole sta fatto. Lavorando su questo si su... può sicuramente migliorare. Ma per esempio imbavagliarsi come ha fatto davanti al Parlamento, come faceva Pannella negli anni 70, che senso ha per un uomo del palazzo come lei? No, il palazzo sarà lei, io non sono uomo di palazzo, perché non sono mai entrato nel palazzo, anzi, e dimostrare, capisce che non la crede nessuno, però sono i fatti. L'Italicum, chi è che si è battuto contro l'Italicum dal primo giorno, all'inizio da solo? E bisogna arrivare fino all'imbavagliamento quando c'è da denunciare che si sta facendo un crimine contro la democrazia. Senta, quindi lei, primo banchiere italiano dalle panchine della stazione di Milano. Postino, banchiere, industriale, imprenditore. E non aveva l'ufficio, va bene. Senta, lo rifarebbe? Assolutamente. Di imbavagliarsi? Assolutamente. Senta, ma sua moglie che ruolo ha nell'organizzazione del Movimento Italia Unica? Beh, stiamo parlando di una persona ingambissima, sì, con la quale ho fatto questa scelta di vita e siamo insieme anche in questo. Lavoro. E lei ha un lavoro, ha un ruolo importante. E la consiglia sulla sua modalità di comunicazione? Su tante cose. Senta, Pisa Pia dice: la candidatura di Passera mi fa ridere, le ha fatto male? Neanche un po', addirittura, se mi ricordo giusto, ha detto: le critiche di Passera mi fanno ridere, e gli ho detto: guardi, i cittadini milanesi che si sono visti triplicare i loro oneri fiscali a fronte di nessun progetto ridono molto di più, ridono molto poco. Senta, anche Maroni però è durissimo con lei, dice che non prenderà neanche i voti dei suoi cari. Gli ha risposto? Beh, gli ha già risposto il sondaggio che ha citato lei gentilmente prima. E comunque stiamo parlando di politica che, prima di accettare qualcuno dall'esterno, naturalmente deve, come dire, sottovalutarlo. Però Maroni rappresenta certamente una parte dell'elettorato al quale lei si dirige. Vabbè, vedremo alla fine. Molto ottimista, insomma, da questo punto determinato, di vista. Determinato. Cioè. Determinato, certo. Mi sembra anche ottimista. Chi? Rispetto a questo elettorato. Guardi che le cose che noi proponiamo, che vuol dire posti di lavoro, sicurezza e aiuti alle famiglie, voglio vedere se loro diranno che non sono d'accordo. Senta, ma lei a un ragazzo di 20 anni cosa direbbe per convincerlo a scommettere sul suo futuro a Milano? Guardi, Milano per me è stata la città dell'opportunità. Per me Milano è stato veramente l'apertura della vita, sia professionale che umana. E voglio far sì che questo sia per tutte le persone che oggi sono all'università o non all'università con quell'età a Milano. Fare di Milano la capitale delle start-up, la città universitaria globale, dove vengono da tutto il mondo per studiare, essere il posto dove chi ha una capacità la può mettere in moto. Vabbè, questo non è che vale per Milano in particolare. Milano ha alcune delle migliori università, grazie anche alla mia legge è uno dei centri di sviluppo delle start-up maggiori del mondo, è comunque una città aperta come poche in Italia. Senta, fare di tutto questo il luogo per i giovani che credono in loro stessi è l'obiettivo. Senta, Pisa Pia mi viene in mente che dice che lei Milano in realtà non la conosce. Ci vivo da quando avevo 18 anni, ho fatto tutte le cose più importanti, dalla banca a Banca Prossima, dalle Poste alla banca, Mondadori. Ma quindi stava dentro il palazzo una banca? Abbiamo insieme fatto una delle più belle banche d'Europa, a Milano, sia per il mondo del non profit Banca Prossima, sia per il mondo delle imprese, e non è mai calato il credito neanche negli anni più difficili. Senta, ma vale la Scala, vale la Bocconi, vale la Mondadori. Devo dire che non ci sono molte persone che con Milano hanno fatto cose belle. Senta, dottor Passera, le faccio un'ultima domanda. Se non vincerà le elezioni, questo può capitare, ha un piano B per la sua vita o continuerà a fare politica? Io non ho mai fatto piani B e secondo me è sbagliato, quando si devono fare cose importanti, avere la via d'uscita. Io sono certo che quello che stiamo facendo con tante persone in gamba sia la cosa migliore per Milano e conto sul fatto di E quindi di in ogni caso continuerebbe, se non è oggi, domani, insomma, una prima volta, una seconda volta, una nessun terza volta. Nessun piano B, questa è la cosa giusta. Senta, un'ultimissima domanda che in questi giorni faccio a tutti. Ma tra Valentino Rossi e Marquez, lei che dice? Chi ha ragione? Rossi per sempre. Per sempre, grazie. 800-24-0024, numero verde, 349-238-6666, l'SMS e pubblicità. State ascoltando un programma offerto da... IBL Banca. Migliora la vita di tutti i giorni. Mix 24. Allora Mario, ce l'ha il titolo per faccia a faccia di passera? Non gli passa. Non gli passa? No. La voglia? No, vuol farlo. Lo vuol fare. Basta. Va bene. E tu Pietrangelo? Per tutte le volte che vi siete detti caro, io farei caro e pur caro passera. Caro e pur caro passera. Due giornali diversi, eh? Scrivete su giornali diversi. Infatti. Siamo qua. Tantissimi sms. Che ci fanno schifo. Pochissimi firmati, e quindi questo è brutto, perché quando si scrivono gli sms e non si firma non va bene. Vabbè, quindi non li leggo, mi sembra già no, perché stavo guardando, sono tutti senza firma. Senza firma non mi piacciono, capisco che non ho nessuna autorità verso i nostri ascoltatori, però insomma sarebbe importante, per educazione come minimo, ecco. Roberto da Pistoia: passera mi sembra già in difficoltà. Da quando l'ha intervistato 2 anni fa mi sembra un cane arrabbiato senza contenuti. Accidenti, cattivissimo. Ehi, cattivo. Roberto da Pistoia, molto però. Cattivo. Vabbè, allora andiamo avanti. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, gli sms. Mario, la canzone, ed è Mario, sì, Pietrangelo, scusa, stamattina è lunedì. Vuoi ne sparo una? Lunedì, no, ma lunedì è tutto lecito, perché Tropical, le parole bastavano da sole a descriverti il regno del sole, del frastuono blu e tropical. Tropical, tropical, tropical, tropical. Erano le ultime sambe degli anni 50, noi giù. Sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù. Confidenzial, fregatura total. Illusional come il Gervital. Altre stagioni, allora, altra storia. Allora qua. E succede questo: che spenti i riflettori del palcoscenico, con l'albeggiare del giorno, i musicisti ne approfittano per darsi alle prove. E sono sempre le prove migliori quelle fatte al mattino, anche quando il freddo invita ai cuscini o al lenzuolo. La stanchezza infatti li rende lucidi, attenti ai nuovi spartiti. L'autunno è tropicale. Stamattina il fantasma di Fred Buscaglione, lungo via Barberini, ha chiesto di mettere Tropical di Paolo Conte e di fare una dedica a Valentina. Tropical, Paolo Conte. Subliminal, tentazione ambientale. Ha messo il nome oggi però, eh? Abbiamo fatto dei passi avanti. Hai visto? C'è il nome di una nella dedica. Lentamente emerge. Secondo me è lei. Conoscendo la biografia di Fred Buscaglione, avresti infatti la risposta. Esatto. Che abbiamo appena raccontato venerdì scorso, mi sembra. Mi siete messi venerdì d'accordo? Scorso. No. Però secondo me è lei che comincia a pretenderlo, capito? Si sta manifestando. Adesso vorrei, perché non vorrei essere equivocata. Guarda che partono con... ci sono due modi per essere, diciamo così, un po' incastrati. Il primo è la dedica alla radio, il secondo è lo spazzolino da denti in casa. Sì, va, non beh. C'è niente da fare. Dai, vai con la tua bolla cattiva, Mario. Allora, Rocky è una canzone molto... la sigla di Rocky è molto bella, funziona, carica, però secondo me per questa bolla serve un'altra cosa. Questa è meglio, Tubular Bells, che è anche la sigla e punto, anzi la colonna sonora, e non dico altro, di un film. Allora, e Corvi in Vaticano. Io ho letto un titolo stamattina sulla stampa molto interessante, sono poi subito corso, sono andato a vedere che cosa ci fosse dentro. Già pronti due mandati di cattura. In Vaticano il cerchio si stringe attorno ai corvi che hanno fatto uscire le carte. Io ho detto, ammazza, notizione, vado subito a vedere. Era una notizione messa un po' piccolo in prima pagina, però vabbè, ognuno poi se la gira come vuole in prima. leggo: due le persone nel mirino della giustizia d'oltre il Tevere, un prelato e uno dei membri laici della commissione di studi di indirizzo sull'organizzazione della struttura economico-amministrativa della Santa Sede, istituita nel luglio 2013. Allora, parliamo di una fuga di carte sulla riforma economica, eccetera. La cosa interessante qui, secondo me, è che praticamente manca il numero di telefono dei cosiddetti catturandi, si può dire. Cioè, siccome sono cerchi ristretti, sì, un prelato ce n'è molti, ma voglio dire, dentro invece la struttura economico-amministrativa i laici non è che sono tantissimi. Però tu hai letto la notizia abbastanza importante di qualche giorno fa: è stato violato un PC sì, di uno, certo, dei prelati, no, che sono addetti all'amministrazione. Certo, certo. Allora, la cosa interessante è questa, che se ci sono i corvi, e sicuramente ci sono, i corvi volano. Ma le colombe in Vaticano graffiano, cioè, quindi non è proprio una lotta, è una grande lotta. Vabbè, è il segno che il Papa i piedi nel piatto li ha messi, cioè, veramente sicuro, voglio dire, sui giornali escono notizie di corvi e notizie di colombe. E una gran guerra tra volatili. Tutti con gli 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Siamo in presenza di una truffa senza precedenti, una truffa ai danni dei consumatori, di una grave vulnus alla fiducia all'interno del mercato europeo, che è un grave vulnus anche all'immagine che l'industria automobilistica europea aveva guadagnato in questi anni, di un'industria innovativa, di un'industria capace di produrre ricerca, di conquistare mercati e così via. Siamo in presenza di una crisi vera, in questa truffa, questo inganno è stato appunto ammesso, riconosciuto. Come sapete, il meccanismo è un meccanismo appunto di omologazione nazionale che poi ha valore su tutto il territorio europeo. Ecco, queste erano le parole del ministro Graziano Del Rio in audizione alla Camera giovedì scorso, naturalmente sul caso Volkswagen, e facciamo un po' il punto. Intanto, un avvocato inglese specialista di class action è pronto alla maxi vertenza. Gli investitori infatti hanno perso oltre 25 miliardi e le pagine di giornali usate per chiedere scusa da parte del colosso tedesco evidentemente non sono bastate. Se i grandi azionisti faranno causa a Volkswagen per 40 miliardi di euro, sentiamo sempre Del Rio quanto sono in Italia le auto coinvolte in questo Dieselgate. La Volkswagen Group ha comunicato che i veicoli circolanti in Italia coinvolti risultano pari a 709.712, suddivisi tra i marchi Volkswagen, Audi, Seat e Skoda. La Volkswagen ha comunicato che i proprietari dei veicoli non conformi saranno informati attraverso una campagna di richiamo e i loro veicoli saranno resi conformi alla norma sulle emissioni mediante le dovute azioni correttive che il costruttore dovrà mettere in opera. Ecco, al di là del linguaggio tecnico-burocratico di Del Rio, però fanno. 700.000 veicoli coinvolti. Mario, insomma, sembra che la Volkswagen si troverà a fronteggiare numerose e diverse class action, sì, mentre il gruppo ha annunciato che effettuerà tagli massicci per fronteggiare i costi dello scandalo, cancellando o rimandando gli investimenti. Allora? E allora sì, tutto ovviamente più che factual, no? Questi sono fatti, però ci sono anche i fatti delle ultime proiezioni economiche fatte sull'azienda, fatte dalla stessa Volkswagen, che dicono che cresce del 5%, perché comunque mettendo da parte tutti i miliardi necessari per eventualmente rispondere alla class action, c'è già con un accantonamento una perdita di 1,25 mi pare miliardi, però le proiezioni per il futuro sono comunque di crescita, poi vedremo se saranno confermate, perché comunque il Dieselgate è una sorta di rischio geopolitico, chiamiamolo così, o geoeconomico. Sì, però diciamo che il numero uno di Volkswagen, Müller, dice che la casa tedesca supererà lo scandalo, sì, ma lo supererà solo attraverso un percorso doloroso. Sì, doloroso vuol dire licenziamenti. Doloroso vuol dire che potrebbe esserci una ristrutturazione forse in Europa. Sicuramente punteranno molto nell'espansione del mercato cinese, come è avvenuto in tutti questi anni. Volkswagen ha moltissime fabbriche e stabilimenti con la Cina che tira meno, però. però insomma l'automobile in Cina è una cosa ancora, no, ancora, che deve, nuova, sì, ancora nuova. Tieni presente che hanno un mercato, diciamo, del Sud America, e che devono risolvere ovviamente il problema americano. Volkswagen ha tutti i numeri per far bene, cioè per uscire da questa crisi. Ha l'incognita, come dicevi tu, della class action, e in particolare dei fondi. Perché i fondi che hanno investito Qatar, sono più gravi di tutti, sono i più forti. Hanno perso un sacco di soldi, e naturalmente questo non è più un rischio aziendale, no. Siamo in un caso di mismanagement. Ecco, ma noi infatti seguiremo questa vicenda, perché è una vicenda che è significativa, anche rappresentativa, sì, di come i fatti dell'economia si intrecciano anche con quelli della geopolitica, perché non ci sono là dentro c'è dimostra anche una cosa. Adesso tu dirai che io la tiro sempre là, però la realtà è che oggi al rischio di shock geopolitico o geoeconomico resistono solo i gruppi che hanno differenziato globalmente questo rischio e che l'hanno quindi ridotto. Quindi la strategia, per esempio, di Marchionne di fare un grande gruppo, stiamo sempre lì, vabbè, però è così, Fiat. Ho visto che è cambiato macchina, vabbè, no, guarda, Salamino. Gli esteri nei giornali sono soltanto un'orgia di menzogne o di disinformazione o di vera e propria ignoranza. E non è che ce la raccontano male i giornali, non ce la raccontano per niente. Allora, il 90% va a votare e la domanda fa duopo: dov'è questa società civile in Turchia che è stata raccontata dai giornali italiani, occidentali in genere, per tutto questo tempo? Perché Erdogan ha la maggioranza assoluta in Turchia e adesso è tutta una nuova storia, perché lì c'è anche un altro protagonista, che è Ahmet Davutoglu, il primo ministro, che è anche il teorico dell'eurasiatismo, insomma alla guida della Turchia fino al 2023. Questa è la sua meta, dove si celebra il centenario di Kemal Atatürk. Erdogan ha confermato non solo il suo successo, ma lo ha conclamato, e andando a smentire quello che c'era stato raccontato. Io proprio ieri ho potuto seguire lo scrutinio dal negozio di un amico turco, e mi sono reso conto col passare delle ore dello sfacciato contrasto che c'è tra il racconto fatto dai nostri giornali e la realtà delle cose. Allora, il mito del laicismo, il tabù della democrazia dei diritti, la teologia psicotica dei pregiudizi ci hanno raccontato di una società civile ansiosa, di costumi americanoidi, come se anche Halloween fosse arrivato a Istanbul o in Anatolia. Ancora oggi i giornali italiani, proprio perché la fissazione è peggio della malattia, raccontano l'esito delle elezioni in Turchia con la chiamata alle armi della società civile. E allora c'è tutto un intervistare di scrittori, di registi, di uomini chic, di femmine pittate e tutti quanti lì per farsi confermare ciò che nel circolo vizioso degli amici istituisce e istruisce la verità di pronto e comodo, adatta ai giornali italiani e alla opinione pubblica continuamente disinformata. Allora, qual è la questione? Mai sporcarsi con la realtà, accodarsi piuttosto ai luoghi comuni, non si conosce la storia, figurarsi la geografia e non ultimo la cosiddetta democrazia. Aveva ragione il topo di Fogna della Voce della Fogna, la democrazia è una cosa troppo seria per lasciarla ai soli democratici. Però sulla Turchia ha ragione. Sulla Turchia ha ragione completamente. Continuano le reazioni al faccia a faccia di Passera, vuol dire che la gente insomma l'ha seguita. Scusate, oltretutto, tu che c'hai uno sguardo attento sulle questioni della borsa, raccontala cosa è successo. Stavamo commentando, stavamo preparando la trasmissione, prima c'è tutto un dietro le quinte qui, certo, a Mix 24. E allora con Giovanni dicevo: oh Giovanni, ma sai che la borsa ha fatto più 5% e la lira turca sta andando a meraviglia? E quindi sarà non lo contenta so. Sara Tardelli, che pigliava sempre la lira turca, cioè, sta lira turca casca. Quindi vorrei dire quasi più della Ferrari. No, sì, no, vabbè, adesso non esageriamo, non toccatemi la Ferrari. Ma Marchionne non è ancora in Turchia, però stiamo lavorando. State lavorando, Marchionne come Erdogan. Secondo me andrebbero d'accordo. Senti, qua dice Giorgio da Trento, dice: Minoli sei odioso. Sei un odioso provocatore. La smetta con il senza. Grazie Giorgio, beh, buon consiglio. Ma sai, per interrompere, invece che dare un cazzotto, delle volte è meglio usare una parola che faccia da, come dire, da virgola. Ma perché l'ha interrotto? No, no, dai. Per carità. Senti, no, c'è ancora una bolla, Mario? Sì, sì, sì. Ah, me l'avete abbassata subito? No, dai. Oh, questi sono gli SDC, mica pizze e fichi. È un po' rocchettaro stamattina perché, allora, Giovanni, qua c'è, tutti quanti fanno il conto della ricapitalizzazione delle banche della Grecia. E so 14 miliardi e fischia, mica così, voglio dire, pochi soldi. Sì, perché ci siamo dimenticati di questo. Ci siamo dimenticati di tutto, in realtà le banche elleniche hanno problemi molto grandi, sono inserite nell'eurosistema, la BCE ovviamente adesso venerdì credo presenteranno il piano di ricapitalizzazione, la BCE dovrà dare il semaforo verde o meno. Segnalo anche che però, intanto che come sempre la catapulta del denaro è e resta in mano a Draghi, segnalo che il governo ellenico si sta muovendo, vedevo stamattina le ultimissime, proprio per dare una mano alle banche. Segnalo anche che però da noi ci sono quattro istituti, Cari Ferrara, Banca Marche, Banca Etruria e Cari Chieti, che stanno fallendo e che hanno bisogno di urgente di liquidità, e parliamo di due testoni, signori cari, due miliardi. Quindi anche vabbè, da noi, vedremo, anche vedremo da noi. Arriva anche no, da noi, quindi l'aggregazione, diciamo, delle banche proposta da Draghi per l'Italia è giusta, perché vanno rafforzate. Poi ovviamente la discussione è aperta, quindi sul Draghi come Marchionne. Anche meglio. Guarda che l'ha intervistato il nostro direttore Roberto Napoletano, era una grande intervista. Bellissima. 800 24 0024, numero verde 349 238 6666, l'SMS, il canzoniere. Se io non ti ami, la maledizione ricada sull'anima mia. Quando non ti amerò più, il caos sarà tornato. Questa è tostissima. 800 24 0024, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Pasolini era veramente un uomo adorabile e indifeso. Era una creatura angelica, una creatura che abbiamo perduto, ma come poeta diventa ancora più alta la sua voce, e sono certo che pure gli oppositori di Pasolini oggi cominceranno a capire il suo messaggio e quello che ci ha voluto dire, e che servirà molto, ci sarà di molto aiuto. Quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente. Abbiamo perso prima di tutto un poeta, e in poeta non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono tre o quattro soltanto all'ultimo secolo. Sono in questo momento apocalittico, cioè vedo di fronte a me un mondo doloroso e sempre più brutto. Non ho speranze, quindi non mi disegno nemmeno un mondo futuro. La parola speranza è cancellata completamente dal mio vocabolario. È una storia da dimenticare, è una storia da non raccontare, è una storia un po' complicata, è una storia sbagliata. David Grieco, Pasolini è morto senza speranza allora? Sì, o meglio, in realtà si è contraddetto proprio morendo nel modo in cui è morto. È morto con tantissima speranza e ce l'ha lasciata anche a noi, dal momento che 40 anni dopo finalmente capiamo cosa ci voleva dire. Ecco, un film, poi un libro, entrambi lei ha dato un titolo molto esplicito, La macchinazione. Dunque per lei la morte di Pasolini sarebbe nata da una congiura, eh? È stata organizzata nei minimi particolari 3 mesi prima. E il libro racconta esattamente questo. La passione secondo Pierpaolo. Oggi, dopo 40 anni, le indagini, i documenti, i misteri di una morte oscura. Qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Mix Mix 24. Ce lo rifai il canzoniere Pietrangelo, perché qui non arriva nessuna telefonata, nessun sms, nessuno lo indovina. Allora è semplicissimo. Basta. Allora, dai. La maledizione ricada sull'anima mia se io non ti ami. Quando non ti amerò più, il caos sarà tornato. Insomma, non vi siete mai innamorati? Non avete mai applaudito a teatro le grandi interpretazioni? Una volta la fecero alternandosi di sera in sera Vittorio Gasman e Carmelo Bene. Vabbè, se non un indovinate altro... questa volta. Indovinate. Allora, il bardo, allora... Ciucci, asini, scecchi, il bardo chi è? 800 24 00 24, numero verde, non fatemi fare una figuraccia con Pietrangelo. 349 238 6666, per favore telefonate e indovinate. Mario, una bolla intanto. Sì. Io non creo niente, io possecco e noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori i conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero, Buddy? È il libero mercato e tu ne fai parte. E noi ne facciamo parte, ovviamente. Grazie, Gordon. Allora, devi allargare però lo spettro delle tue citazioni. No, no, Gordon oramai Gordon è non si tocca. È qualcosa, vabbè, di, okay, così, sta là come un'icona, insomma. No, segnalo un paio di cose invece molto interessanti. È confermata la salita della lira turca, che sta diventando la notizia dopo la vittoria di Erdogan. L'altra cosa molto curiosa da guardare sui mercati è che il quantitative easing della Banca Centrale Europea è stato favorito dalla Banca Centrale Cinese, che ha cominciato a vendere titoli tedeschi. Siccome non è semplice trovare i titoli sul mercato, no? le emissioni, questa cessione da parte della banca cinese aiutava la BCE a fare il suo programma di acquisti. Sono 60 miliardi al mese, non è proprio semplicissimo. La terza cosa è una cosa di geopolitica invece, che ci riguarda da vicino, visto che Gordon parlava di mercati e guerre anche, e riguarda il processo di pace in Libia. Gentiloni è andato a Algeri, lui è sempre ottimista ovviamente, e il ministro della difesa Roberta Pinotti ha detto che il raid in Libia, le ha detto, non è una strategia. Il cimitero italiano non lo so, lì secondo me è un gran caos, usiamo questo termine gentile, perché in realtà i due parlamenti sono sempre splittati, non riescono assolutamente a trovare una soluzione. Nel frattempo noi stiamo parlando perché stiamo aspettando la telefonata. Arriva Alessandra, c'è qualche telefonata? Nessuna telefonata. Vabbè, vinco io. È l'Otello di Shakespeare. Ah, finalmente, applauso, hai vinto un libro. Oh, hai vinto un libro. Adesso con il professor Bernabei, che avrebbe indovinato sicuramente, commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Journal of Sex Medicine, luglio 2015. La fibanserina è approvata per il desiderio sessuale diminuito nelle donne in premenopausa. Cioè, esattamente di cosa si tratta, professore? Ma si tratta del fatto che qualcuno l'ha chiamato il Viagra femminile. Non è esattamente così, perché una medicina, la flibanserina, che è stata utilizzata negli anni per la depressione, soprattutto perché lavora sul meccanismo della serotonina, che come sapete è responsabile almeno in parte del problema della depressione, è stata testata per quello che gli statunitensi chiamano lo hypoactive sexual desire disorder, cioè il disordine determinato da un minor desiderio sessuale. E allora si è visto che chi è che le donne che utilizzavano, donne in premenopausa, che utilizzavano questa flibanserina, avevano un aumentato desiderio sessuale nel 45% rispetto al 35% del placebo. Quindi un effetto intanto modesto, per cui si dice che devi trattare 10 donne per averne una che ha un aumento del desiderio sessuale. Accompagnato però da secchezza delle fauci, ipotensione, addirittura sincope, per cui si consiglia di prenderlo quando uno è già sdraiato. Ora, è evidente che questo è l'inizio di un tentativo di aiutare le donne che hanno questo problema a a essere più, se volete, più felici, però non è evidentemente la risorsa finale e certamente non ha gli stessi effetti che ha avuto il Viagra invece o tutti i derivati nell'uomo ad oggi. Beh, visto che leggo quando mi insultano, leggo anche le cose carine. Minori, sei amabile, non badare detrattori. Grazie Aldo da Parma. Aldo da Parma. Intanto continuano a non telefonare. Rinviamo naturalmente a domani. Già l'hai detto tu. È vero, pensa a te come sono lunedì. Messo stamattina, è lunedì proprio. Vabbè, per chiudere allora Mina con Una casa in cima al mondo. Amore, non piangere per me. Se questo mondo non ha sorrisi per me, ringrazio il Dio di avermi dato già te, già te. Vedrai che un giorno cambierà, verrà un mattino ed a svegliarti.